cari cristiani, ci sono certe cose che sono logiche, che sono conosciute da tutti, eppure non si vivono. Ce ne sono tante. Qui in chiesa mi interessa sottolinearne una, che non ci si può avvicinare a Dio avendo peccati addosso. Non si può. Il Vangelo continua a dimostrarlo. Basta pensare agli invitati alle nozze, chi non aveva l'abito degno di quel banchetto di nozze. Basta pensare alla Santa Messa che comincia, dopo il segno di croce, con il chiedere perdono a Dio dei nostri peccati per avvicinarci all'altare. Basta pensare quando facciamo la Santa Comunione, prima di avvicinarci diciamo: oh Signore, io non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola. Basta pensare all'Avvento. Abbiamo sentito Giovanni le domeniche scorse, in cui apostrofava i suoi ascoltatori e noi: razza di vipere, ma non capite che la scure è posta ai piedi della pianta per tagliarla se non abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati? E la festa di oggi, l'Immacolata, dice esattamente la stessa cosa. Ci viene proposto come modello Maria, che per accogliere Gesù Cristo è stata preservata direttamente da Dio da qualsiasi peccato, anche dal peccato originale. Ognuno di noi nasce con questo sfregio del peccato di origine. Maria no, è stata l'unica creatura al mondo, per questo oggi è l'Immacolata Concezione della Madonna. In sua mamma, che si chiamava Anna, lei è stata concepita senza peccato originale. E per singolare grazia di Dio, lei ha vissuto tutta la vita senza un solo peccato. È per questo che Maria è così amata e così onorata dalla Chiesa. È per questo che Maria è così temuta da Satana. Una bella espressione di Padre Pio dice: il cuore immacolato di Maria è l'unico luogo al mondo in cui Satana non può metterci le sue mani. Bellissimo, è vero. Perché Satana mangia i peccati. Satana è agganciato dai nostri peccati, Maria non ne ha. Per questo la Chiesa ci propone, prima del Santo Natale, l'esempio dell'Immacolata e ci dice: caro cristiano, se ti avvicini al Santo Natale, devi liberarti dai tuoi peccati, devi convertirti, come diceva Giovanni Battista. Ora, noi siamo liberati dai nostri peccati col battesimo, ma dopo il battesimo, diventando grandi, non siamo santi, cadiamo nei peccati. Allora Gesù ci ha donato il sacramento della sua misericordia e la Chiesa ce lo ripropone, la Santa Confessione. Non ci si può avvicinare a Gesù senza esserci confessati. Lo so che qualcuno dice: ma io di peccati non ne ho, e così si fa condannare direttamente da San Giovanni Evangelista, che nelle sue lettere dice: chi afferma di essere senza peccato è un mentitore, è un bugiardo. E per questo vi rubo qualche minuto per dirvi che dobbiamo imparare a confessarci bene, cari cristiani. Il sacerdote ormai ha un'esperienza di questo, incontra anime di fronte alle quali mi è capitato, mi verrebbe quasi voglia di dire: signora, ma lei è una santa, dovrebbe lei benedire me. E guardate che ce n'è, e tante volte la gente dice: mia mamma era una santa, la mia nonna era una santa. Ma di fronte a questa realtà il sacerdote incontra tante volte persone di una superficialità straordinaria, che si confessano con lo stampino da sempre. Ma no, amici, la confessione deve essere un mettersi davanti al Signore e dire: perdonami, Signore, perché io ho peccato. Altro che non ho peccati. Io credo che dobbiamo ricordare quello che io vi ripeto spesso, che cos'è la vera fede, che non è la religione. La religione è l'insieme delle abitudini che abbiamo. Ti nasce un figlio, lo battezzi, muore il nonno, il bisnonno, lo porti in chiesa per il funerale, si chiama il sacerdote a benedire le case per noi a Natale. Ma la fede è il tuo rapporto diretto con Gesù. Io lo dico con una frase semplicissima: la fede è guardare Gesù negli occhi, avere cuore a cuore con Gesù. Questa è la fede, amici. E allora, quando ci confessiamo, dovremmo, perdonate se cito me stesso, ma tante volte la mamma e il papà portano il loro esempio per i loro figli. Io credo che la più bella confessione della mia vita, perché anch'io vado a confessarmi, e faccio come il Papa, vado ogni 15 giorni a confessarmi. Oh, caspita, chissà quanti peccati hai. Avete ragione. E vado dallo stesso sacerdote, anche se devo fare 30 chilometri andare, altrettanti a tornare, prendendo l'autostrada e pagando il pedaggio. Ma se tu hai uno che ti segue bene, se tu hai un medico che ti cura bene, tu sei felice di andare da quello. Mi ricordo che un po' di anni fa attraversavo la pianura a sud di Milano e vedevo un paesaggio invernale bellissimo. Non ve lo sto a descrivere, ma io ce l'ho ancora negli occhi. E di colpo mi ha preso come una tristezza, che mi sono messo a piangere, ho dovuto fermarmi a lato perché non ci vedevo più. E veniva su dal mio cuore questo pensiero: Signore, io non ti amo come tu meriti. E mi veniva da piangere, ma è durato non più di mezzo minuto, ma era un pianto dolcissimo, perché capivo che ero davanti a Dio. Vedevo Dio nella sua grandezza nel mio cuore e vedevo la mia povertà. Ma era un pianto dolce. Tant'è vero che quando è finito io avrei voluto continuare, era troppo bello, ma non veniva più, non veniva più. Era una grazia che Dio mi ha dato. Signore, perdona, non ti amo come tu meriti. Sono andato a confessarmi, mi inginocchio davanti al mio confessore, dopo il segno di croce, dico esattamente questo: Signore Gesù, ti chiedo perdono perché non ti amo come tu meriti. Quel sacerdote che mi conosceva bene, ecco il vantaggio, non mi ha detto una parola, mi ha dato la soluzione e mi ha lasciato andare, perché ha capito che in quel momento io ero alla presenza di Dio nel mio cuore e ogni sua parola avrebbe rovinato tutto. Che differenza, amici, di certe confessioni, dove qualcuno comincia a confessare i peccati degli altri. Perché sa mio marito, perché sa la mia nuora, sa la mia suocera, perché è mia vicina. Ma confessa i tuoi peccati. E certa gente che fa di quelle chiacchierate che non finiscono più e alla fine va via dalla confessione e dice: ah, come sono contento, mi sono proprio sfogato. Ma la confessione non è uno sfogatoio. La confessione è metterti davanti a Dio e dire: Signore, io mi metto in ginocchio davanti a te perché io non ti amo come... Amici, dobbiamo, ognuno col suo stile, questo era il mio, e mi avete capito perché ve l'ho detto, perché sono le esperienze che valgono più che le spiegazioni. Voi fatelo come come siete voi, però per favore non andate a confessarvi per Natale dicendo: sa, siamo qui, una volta all'anno devo farlo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Beh, questo lo vedremo un'altra puntata, perché i 10 minuti sono già passati, ma arriviamo almeno a Natale, immacolati dentro il cuore, un pochino come Maria. Se noi diciamo a Dio il nostro pentimento di non amarlo come lui meriterebbe, ci prepariamo bene a Natale.